Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Valsela è il giorno della protesta, nuova mobilitazione dei lavoratori a Bagnoli, chiesta all'azienda più chiarezza e al governo e alle istituzioni un'azione più incisiva. Obiettivo collaborazione, a Trieste a confronto 5 autorità portuali dell'Adriatico, le sinergie strumento chiave per far concorrenza agli scali del Nord Europa. Carenza idrica, le piogge rendono meno grave la situazione, meno limitazioni alle irrigazioni nel Pordenonese. Allungare l'arco temporale delle previsioni del tempo, la nuova sfida della meteorologia, lo scopo migliorare la prevenzione degli effetti negativi. Saluti romani per Grills, la protesta di Lubiana, la presidente Piers Mussara stigmatizza il gesto, non trova posto nel percorso di riconciliazione. Sta per aprire a Trieste il primo caffè Sacher in Italia. Cresce l'attesa da parte degli appassionati della celebre torta al cioccolato della pasticceria viennese. Udinese-Lazio sconfitta di rigore dubbio. I bianconeri recriminano sull'episodio che ha consentito ad Immobile di segnare il gol decisivo. Per il basket, stasera gara 4 della sfida playoff tra Cividale e Udine. Se i bianconeri vincono, vanno in semifinale. 12:31 minuti e 24 secondi, buongiorno da Andrea Vardanega, Daniele Lettic che condurranno questa seconda edizione del giornale radio regionale. Sciopero e assemblea stamattina alla Valsela di San Dorligo della Valle, si chiede alla proprietà maggiore chiarezza sulle trattative per la reindustrializzazione del sito e un impegno ancora maggiore da parte delle istituzioni per garantire la continuità dei posti di lavoro. I dubbi degli operai anche dopo il giallo legato all'offerta portata al tavolo ministeriale ma smentita dai diretti interessati del gruppo lombardo IMR. Alle 9 in punto i lavoratori escono dallo stabilimento per aderire allo sciopero di un'ora, il tempo di svolgere un'assemblea all'esterno dei cancelli come 312 giorni fa quando cominciava la mobilitazione. Varsila aveva appena annunciato la chiusura della produzione, oltre 400 esuberi. Oggi una soluzione ancora non c'è, né per i dipendenti diretti né per quelli dell'indotto, tantomeno per il territorio che rischia di perdere un altro pezzo importante di industria. Tra i lavoratori prevale il pessimismo. La sensazione è che saremo in strada tutti. Non è ottimista? No, assolutamente no. Conoscendo i finlandesi saremo tutti in strada. Io sono tra quelli che probabilmente finirà di lavorare fra un po'. Sono tra quelli fortunati perché mi manca non troppo per la pensione, però. La mobilitazione riparte, ma sempre con testa, avverte lo storico rappresentante dell'RSU, Fabio Canidisec, della FIM CISL. Non serve occupare la stazione, la superstrada, sono cose del passato che non portano risultati a lungo termine. A noi questo serve. Serve che il governo trovi soluzioni per dare risposte a 1000 famiglie. Chiama in causa il governo pure Antonio Roda della UILM, anche perché l'azienda ormai ha perso credibilità, dicono tutti. Sappiamo che il governo ha tutte le possibilità, le capacità, gli strumenti industriali e finanziari, i rapporti con i grandi gruppi che possono essere interessati a questa area. A questo punto il governo deve fare da regia. Tra una settimana il tavolo tecnico in regione per discutere del piano industriale per quei 600 lavoratori che dovrebbero rimanere. Ma la fiducia nell'azienda sta venendo sempre più meno, anche dopo il caso dell'offerta vincolante annunciata al Ministero e che in realtà non c'è. Andrea Della Pietra della FIOM CGL. Le persone sono stanche, il 14 luglio dell'altrano che stanno combattendo un po' tutti, noi e loro, e non escludo altre iniziative se la situazione non si sblocca. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. 5 autorità portuali dell'Adriatico a confronto stamattina a Trieste in un evento organizzato dal quotidiano Il Piccolo. Obiettivo: rafforzare la rete di collaborazioni e accrescere la capacità di fare sistema per tener testa alla concorrenza agguerrita dei porti del nord. È in corso a Trieste il primo convegno per dialogare sullo stato di salute del sistema logistico e portuale del mare Adriatico. Il centro congressi in Porto Vecchio ospita per l'intera giornata il dialogo fra ben 5 porti: il padrone di casa, Zeno D'Agostino, presidente dei porti di Trieste e Monfalcone, e poi i suoi omologhi di Venezia, Ravenna, Capodistria e Fiume. Fra gli organizzatori del summit, il Piccolo di Trieste e il Secolo XIX, il giornale di Genova, una collaborazione molto apprezzata anche dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha aperto i lavori sottolineando proprio l'importanza di questa occasione per parlare del sistema logistico italiano per renderlo più forte e unito anche in chiave di concorrenza europea. Si è parlato ovviamente della nuova via della seta, gli accordi con i cinesi non si sono concretizzati in quel progetto di cui si è iniziato a parlare 2 anni fa, ma la via della seta è un corridoio che esiste, fra Asia e Europa esisterà sempre ed è importante, pari al 70% del totale della merce in transito, e questo non è in discussione, la rotta commerciale c'è e ci staremo, sarebbe un suicidio altrimenti, dice Zeno D'Agostino. Chi decide chi entra nei porti? Non più il governo, ma l'autorità di regolazione dei trasporti, ART, con base a Torino, decide in base ad un algoritmo quale concessionario far entrare in porto. Questo ha chiesto la comunità europea perché Bruxelles ci vede come un paese a rischio per la trasparenza e quindi chiede una clausola sulla durata delle concessioni se vogliamo i soldi del PNRR. Queste le parole di un preoccupato Zeno D'Agostino per questa riforma delle concessioni portuali che inciderà a partire dal mese prossimo e che cambia completamente le regole, quindi toglie al governo e alla politica la decisione di a chi affidare le concessioni e le dà in mano appunto ad un authority super partes che lavora in base ad un algoritmo. Tutti i presidenti di autorità portuali presenti hanno manifestato preoccupazione a riguardo, ma anche l'opportunità in questo modo di poter avere i fondi del PNRR. A breve è previsto l'intervento in videocollegamento del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. In margine del convegno Fedriga è intervenuto anche sul tema del PNRR. Non è possibile, ha detto il governatore, che ci siano delle regioni come il Friuli Venezia Giulia che hanno un investimento pro capite che è un sesto di quello di altre regioni, il 600% in meno. Questo è inaccettabile. Penso, ha aggiunto Fedriga, che alcuni progetti del PNRR siano fuori dal contesto storico che stiamo vivendo e altri che siano critici fin dall'inizio. Serve dunque uniformità anche degli interventi a livello nazionale. Io, ha detto Federica, ha chiesto al governo ufficialmente anche un incontro col ministro Fitto che nella revisione del PNRR si vada a considerare una uniformità di eventi, perché altrimenti, ha concluso il presidente regionale, il Friuli Venezia Giulia a questa logica non ci starebbe. Le piogge dei giorni scorsi hanno fortemente mitigato la crisi idrica generata in regione dalla precedente lunga siccità. Dal Pordenonese un primo allentamento alle misure di austerità per quanto riguarda le irrigazioni. Frutteti e vigneti stanno andando avanti, la crescita è regolare, la produzione si prospetta molto buona. C'è più ottimismo tra gli agricoltori del Friuli occidentale. Grazie alle recenti precipitazioni, gli invasi montani sono pieni, le falde si stanno stabilizzando e la stagione irrigua si appresta a partire senza limitazioni. Resta però l'incognita meteo da giugno in poi. Mattia Pavane, delegato Giovani Impresa Coldiretti Pordenone. La situazione può cambiare in tempi molto rapidi. Basta vedere adesso come nell'ultimo periodo, come è stato in Emilia-Romagna, si può passare da un periodo estremamente siccitoso a una situazione di piovosità estrema. Ma siamo pronti anche con difesa, diciamo così, tecnica, come abbiamo fatto l'anno scorso, quindi con irrigazioni climatizzanti, distribuiamo l'acqua da sopra e raffreddiamo le piante per limitare l'insolazione. E dopo naturalmente abbiamo imparato ad utilizzare delle tecniche che utilizzavano in Sud Italia o addirittura in Nord Africa con l'imbiancamento delle piante, per cui sporcarle proprio con delle argille per cercare di salvare il più possibile raccolto, quindi uve, mele e kiwi. Se gli agricoltori stanno mettendo in campo tecniche di risparmio idrico come l'irrigazione goccia a goccia, secondo Coldiretti resta urgente la realizzazione di ulteriori invasi per trattenere l'acqua piovana. Oggi se ne raccoglie appena l'11%. Antonio Bertolle, direttore Coldiretti Pordenone. La nostra regione ha già investito 18 milioni di euro l'anno scorso proprio per dei piccoli invasi. E ce ne sono già in progettazione 3 per la nostra provincia, ma altri dovranno essere sicuramente progettati, perché non dimentichiamo che tutta l'area della bassa pordenonese ad oggi non è asservita da sistemi di irrigazione. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Quanto utile sarebbe conoscere con più accuratezza e su un più ampio arco temporale le previsioni del tempo per cercare di mettere in campo azioni preventive mirate, ad esempio per il rischio incendi da periodi siccitosi o per le alluvioni? Questa è una delle sfide dei meteorologi, ne abbiamo parlato oggi a Buongiorno Regione. Il sole è alto e le temperature che si alzano, e tuttavia una primavera più piovosa del solito. È possibile dire se queste precipitazioni ci risparmieranno gli incendi quest'estate? A spiegarcelo è Sergio Nordio dell'ARPA regionale, intervenuto oggi a Buongiorno Regione. Partiamo meglio, decisamente meglio, è piovuto un po' di più rispetto all'inverno precedente e anche questo inizio della primavera, però diciamo che soprattutto per certi terreni dove la profondità è piuttosto ridotta, in realtà bastano poi un po' di giornate calde e secche e l'evapotraspirazione, quindi il consumo d'acqua del terreno, è abbastanza rapido. Si parla di 5-7 mm al giorno di perdita d'acqua dai terreni. Questi valori su un terreno che è poco profondo, 20-30 cm o anche meno, può voler dire che nel giro di una settimana, 10 giorni, si va un po' a perdere quello che è tutta la riserva d'acqua. Molto dipenderà da cosa succederà nelle prossime settimane, quindi il meteo che ci aspetta rimane incerto. E a proposito di previsioni, la sfida del futuro è quella di riuscire a vedere in anticipo dove accadranno gli eventi estremi con precisione al chilometro per lanciare l'allerta in tempo su un'area più limitata possibile. Al momento, soprattutto sul medio periodo, questo non è possibile. Per quanto riguarda le previsioni a breve termine, si riesce discretamente, a individuare le zone, anche se tutto dipende poi dall'eventuale insorgenza di celle temporalesche, che queste sballano parecchio i quantitativi anche su un territorio molto ristretto. Per quanto riguarda invece le previsioni più a lungo termine, chiamiamole quelle stagionali o perlomeno settimanali o mensili, si va a vedere una media su un'area molto più ampia e quindi è molto difficile da qui a un mese dire dove pioverà tantissimo e dove meno. Potremmo avere anche delle differenze significative, quindi si guarda un po' uno sguardo d'insieme per zone più vaste. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche i vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia concorrono con alcune squadre di soccorsi agli alluvionati dell'Emilia Romagna. Oltre ai 3 moduli operativi della colonna mobile regionale già presenti sul territorio alluvionato, ieri la direzione regionale dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia ha disposto l'invio di un ulteriore modulo di pompaggio composto da 5 operatori che, dotati di motopompe di media capacità, hanno raggiunto le zone alluvionate in serata. Oltre al personale partito ieri, stanno ancora operando in Emilia Romagna 21 vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. Le squadre vengono dislocate di volta in volta nelle località dove è più necessario il loro operato. È stato trovato senza vita nella tarda mattinata di oggi il 23enne di Codroipo Leonardo Cudini, che era scomparso sabato attorno all'ora di pranzo. Il giovane era uscito di casa in bicicletta alle 12, alle 13 avrebbe dovuto presentarsi al lavoro in un ristorante, dove però non è mai arrivato. Le ricerche dei volontari della squadra comunale di protezione civile di Codroipo e dei vigili del fuoco erano iniziate nel primo pomeriggio di ieri e si erano concentrate in particolare lungo il greto del Tagliamento. Sono in corso indagini delle forze dell'ordine che non escludono il gesto estremo. 12.42 il tempo. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 25 gradi, a Gorizia, Pordenone e Udine 26. A Tolmezzo 22 gradi, a Forni di Sopra 20, a Tarvisio 19, a Sappada 18, sul Piancavallo 16 gradi. Sul Monte Zoncolan 13, sul Monte Lussari 11. A Lignano e Grado 25 gradi. Secondo l'Osservatorio Meteorologico Regionale dell'ARPA, nel pomeriggio sarà possibile maggiore variabilità in montagna. Non sono esclusi isolati rovesci, anche temporaleschi, che potrebbero interessare più marginalmente anche la fascia pedemontana. Soffierà buona moderata sulle zone orientali, in attenuazione le temperature massime saranno piuttosto alte, specie in pianura. Per domani si prevede cielo in prevalenza ancora poco nuvoloso, con velature su pianura e costa. In montagna maggiore variabilità. Dal primo pomeriggio di domani saranno possibili rovesci sparsi e qualche temporale sulla zona montana e in pianura. Le temperature massime domani saranno piuttosto alte, specie in pianura. I saluti a cui abbiamo assistito a Trieste sono il simbolo di un'epoca che ha portato odio, divisioni e violenza. Lo ha scritto su Twitter la Presidente della Repubblica Slovena Nataša Pirc Musar, in riferimento ai saluti romani alla commemorazione di venerdì scorso in centro a Trieste in ricordo di Almerigo Grilz, giornalista di guerra, dirigente del movimento studentesco Fronte della Gioventù e del Movimento Sociale Italiano. Commemorazione a cui era presente anche l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro. Il presidente Mattarella e io abbiamo sottolineato il nostro impegno per un comune cammino europeo, con uno sguardo al futuro, nel rispetto e nella collaborazione. Gli eventi di Trieste non trovano posto in questo percorso, ha aggiunto Pirc Musar, che è in viaggio ufficiale in Italia da venerdì e oggi incontrerà in Vaticano Papa Francesco. È di 73,60 euro la spesa media che una famiglia sostiene per la mensa scolastica nella scuola del Friuli Venezia Giulia, inferiore di quasi 10 euro rispetto alla media nazionale, che è di 82. Per la scuola primaria invece la spesa media mensile è pari a 81,40 euro. I dati arrivano da un'indagine di Cittadinanza Attiva sulle tariffe delle mense in tutta Italia e prendono come riferimento una famiglia tipo con un reddito lordo annuo di 44.200 euro, un ISEE di 19.900 e ipotizzando una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di 9 mesi. Nella scuola dell'infanzia della nostra regione, si legge sempre nel rapporto, si va dai 2,95 euro a pasto nelle scuole di Gorizia ai 4,70 che si pagano a Udine. Oggi al Liceo Classico Linguistico Petrarca di Trieste è in programma alle 15 una particolare cerimonia di consegna di diploma. Si tratta dei diplomi ESABAC, conseguiti anche quest'anno da 60 studenti, che consentirà loro di iscriversi all'università francesi come se avessero superato l'esame di maturità Oltralpe. Si tratta di un'esperienza di studi innovativa e qualificante, spiega la dirigente scolastica del Petrarca, Cesira Militello, che costituisce il coronamento di un'esperienza di studi innovativa. Sentiamo. È una bellissima iniziativa che consente agli studenti di conseguire il doppio diploma, quindi sia il diploma conclusivo della scuola secondaria di secondo grado con il superamento dell'esame di Stato, sia il baccalaureato francese. Ed infatti ESABAC è un acronimo, ESA esame di Stato, BAC baccalaureato. E consente l'accesso direttamente alle università francesi. Esattamente, perché chi consegue questo diploma ESABAC ha automaticamente il livello di certificazione linguistica B2 in francese e pertanto accede direttamente ai corsi di laurea di lingua francese non soltanto in Francia ma in tutti quanti i paesi francofoni. Sono 10 anni che va avanti questa iniziativa e almeno il 10% di studenti ha rilevato che si iscrive poi nelle università francesi. Che bilancio si può fare a questo punto e cosa cambierà dall'anno prossimo? Allora, sicuramente un bilancio positivo perché significa lanciare verso una dimensione internazionale i ragazzi. Devo dire che a partire dal prossimo anno ci sarà una riduzione perché il Ministero ha richiesto che ci sia soltanto una sezione al Liceo Petrarca che sarà caratterizzata da una dimensione di eccellenza, per cui si accederà a questo progetto affrontando una prova di selezione. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Sta per aprire a Trieste il primo caffè Zacher in Italia. Cresce l'attesa da parte degli appassionati, in particolare quelli della celebre torta al cioccolato della pasticceria viennese. La carta da pacchi che copre le vetrine, i passanti che sbirciano, curiosità attesa, tutti lo sanno che a giorni aprirà il caffè Zacher di Trieste, il primo al mondo fuori dall'Austria, e non ci sarà alcuna inaugurazione. La carta verrà stracciata, la luce entrerà assieme alla clientela in questo salotto viennese, le poltrone di velluto rosso, i tavoli in marmo di Aurisina, nell'antico negozio di scarpe Rosini, sugli scaffali perfettamente restaurati, raggiungibili nelle parti alte dalle scale mobili in legno, le torte che ogni settimana arriveranno con 3 diversi ordini da Vienna. La casa madre è l'unica a poter realizzare con la ricetta segreta l'iconica torta. A recuperare questo antico negozio, riportandolo ai fasti d'un tempo, fu il primo negozio di scarpe dell'impero a Trieste, Dizzy Alfons, imprenditore d'origine viennese, cittadino del mondo con una vita da romanzo, ha lavorato per la moda, la comunicazione e l'accoglienza, da New York a Parigi, da Mumbai a Singapore, da sempre innamorato dell'Italia. Che cosa vede qui dentro? Come immagina le persone e soprattutto che tipo di lavoro avete fatto di recupero di questo luogo? Ecco, il recupero qui è stata una lunga strada complicata, sempre strettamente lavorando insieme con la soprintendenza, il recupero di vecchi specchi, vecchi materiali, prima coperti di cubetti di velluto degli anni 60-70, e piano piano abbiamo scavato come un lavoro archeologico il logo. E poi alla fine è stato come previsto o come sentito dal primo momento di creare un salotto dei triestini classico, miscela Vienna, Trieste, come era sempre. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Cinema Zero a Pordenone, questo pomeriggio alle 17.45 in programma la proiezione di She Said, film che racconta l'origine del movimento Me Too sui crimini sessuali di Harvey Weinstein, produttore cinematografico e predatore seriale. Al centro dell'incontro, promosso dall'Ordine dei giornalisti regionale, è il ruolo del giornalismo d'inchiesta e del cinema per il cambiamento culturale e sociale, con particolare riferimento alla parità di genere e ai diritti delle donne. Tra gli ospiti, Andrea Busato, dell'associazione In Prima Persona. Ascoltiamolo. In Prima Persona è un'associazione che esiste da circa 7 anni a Pordenone, è un'associazione di uomini che si sono fatti carico di un problema, diciamo, morale, che è quello della violenza di genere. È un problema che riteniamo si possa risolvere non perché le donne, ovviamente del tutto legittimamente, imparano a difendersi, ma un problema che si risolve quando gli uomini hanno deciso di smettere di essere il problema. Abbiamo diversi tipi di iniziative che sono fondamentalmente di sensibilizzazione culturale, diciamo iniziative di prevenzione. Che riscontri avete da parte degli uomini? Beh, abbiamo parecchi riscontri, diciamo, da parte delle donne, nel senso che quando ci sono delle iniziative pubbliche sono molto presenti, purtroppo devo dire ne abbiamo un po' meno da parte degli uomini, e questo temiamo che faccia parte un po' dell'atteggiamento maschile di sottovalutazione del problema. L'evento di questa sera è relativo all'inchiesta Me Too. E in che misura interviene in prima persona in questo evento? Noi accettiamo volentieri di essere coinvolti nelle situazioni nelle quali possiamo essere testimoni di una tendenza da parte degli uomini, speriamo oggi, ad un cambiamento di atteggiamento rispetto a questo problema. Quindi, essendo un film che testimonia una vicenda molto drammatica in cui la prepotenza, diciamo, maschile è stata anche molto dannosa nei confronti di molte donne, ci fa piacere essere presenti e testimoniare il nostro punto di vista, che è di piena solidarietà con le donne che ne sono vittime, non soltanto in un caso eclatante, forse anche molto originale e particolare come quello del cinema americano, ma diciamo in generale nella discriminazione come fenomeno sociale che porta dei danni inimmaginabili. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, calcio, Udinese Lazio il giorno dopo, sconfitta per gli uomini di Sottil che recriminano per un rigore decisamente generoso concesso agli ospiti. Il servizio. Una sconfitta che fa male alla classifica e un rigore che fa arrabbiare l'Udinese. Con il KO in casa con la Lazio si allontana il decimo posto, ora a 4 punti a 2 giornate dalla fine del campionato. Ma la battuta d'arresto dopo 8 risultati positivi al Friuli della squadra di Sottil arriva per un rigore per fallo di Masina su Immobile, fischiato da Pairetto e confermato dal VAR, che lascia tanta rabbia tra i bianconeri, squadra, società e tifosi. Sentiamo il tecnico Andrea Sottil. C'è un rigore che non è un rigore ma è una simulazione, quindi voglio dire, ripeto, non voglio togliere dei meriti alla Lazio. La Lazio è una grande squadra, ha fatto la sua partita, ci ha messo in difficoltà soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo a me l'Udinese è piaciuta molto, però poi il rigore non è mai rigore. Forse è la prima volta che mi lamento del direttore di gara, però l'hanno detto un po' tutti, perché è la verità, Immobile si lascia andare assolutamente, Masina è fermo e poi è chiaro, il VAR non interviene perché c'è un contatto, mi devono spiegare qual è il contatto. Le ultime 2 sfide di campionato, a Salerno sabato e poi al Friuli con la Juventus, l'Udinese dovrà giocarle ancora in emergenza, come accade ormai da oltre un mese, senza molti titolari, Deulofeu, Saxès, Isibue e Bosele, e con altri che Sottil deve gestire perché non al meglio, come Udoji. Colpa degli infortuni ma anche di una rosa ristretta che fa pensare che la salvezza conquistata di fatto grazie alle 6 vittorie di fila di inizio stagione ha messo al riparo l'Udinese da un girone di ritorno altrimenti con l'acqua quasi alla gola. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket in Serie A2, Cividale e Udine di nuovo in campo questa sera alle 20 nella città ducale per gara 4 dei quarti di finale dei play-off promozione. Udine è in testa alla serie per 2-1, in caso di vittoria questa sera guadagnerebbe l'accesso alla semifinale. Ciclismo, Federico Pozzetto e Thomas Cefuta hanno fatto il bis nella corsa per Haiti, vincendo come già nel 2022 rispettivamente la Gran Fondo da 151 km e la Medio Fondo da 105 km della 30ª edizione della manifestazione sportiva organizzata dalla ASD Chiarcosso Help Haiti. Le gare femminili sono state vinte da Erika Iasenko, trionfatrice della Gran Fondo, e da Anna Biani nella Medio Fondo. All'evento andato in scena ieri tra Cividale del Friuli, le Valli del Torre e del Natisa è stata affiancata anche una cicloturistica che ha visto il successo del Friul Team 18. La giornata ha visto al via oltre 850 atleti. Considerando la corsa dedicata ai giovanissimi che si è disputata sabato a Rualis e che ha visto la partecipazione di quasi tutte le principali squadre giovanili del Friuli Venezia Giulia e il Veneto, il numero di atleti giunti nella cittadina ducale nel fine settimana ha sfiorato quota 1000. Help Haiti raccoglie risorse e contributi da destinare alle popolazioni più povere di Haiti e per sviluppare progetti volti a garantire sostegno e maggiore sicurezza soprattutto alle bambine e ai bambini haitiani. Concludiamo il giornale segnalando 2 appuntamenti con la musica classica, con i concerti di stasera e di domani. Si chiude la 91ª stagione della Società dei Concerti di Trieste, così come si conclude il ciclo dedicato all'esecuzione integrale delle sonate di Beethoven che hanno impegnato il pianista Filippo Gamba a Trieste negli ultimi 5 anni. L'appuntamento di stasera è, come di consueto, alle 20:30 al Teatro Verdi, con l'esecuzione delle opere 109, 110 e 111. Domani invece Gamba suonerà alle 18:30 e alle 20:30 in sala Luttazzi in Porto Vecchio, cioè nel luogo in cui si pensi sia stato conservato per un certo periodo uno dei pianoforti di Beethoven, quello che fu usato per comporre alcune delle ultime sonate, tra cui l'opera 106 che sarà proposta appunto in concerto. Stasera invece alle 19:15 al Caffè degli Specchi si terrà l'incontro prolusione al concerto con il pianista assieme al direttore artistico della Società dei Concerti di Trieste, Marco Seco. E torna in concerto a Trieste anche l'Orchestra d'Archi del Conservatorio Tartini, che si presenterà al pubblico stasera alle 20:30 nella sede dell'Istituto di Via Ghega, in un organico di 23 elementi, fra violini primi e secondi, viole, violoncelli e contrabbassi. Il programma della serata si aprirà con Crisantemi di Puccini, uno dei pochissimi brani di musica da camera scritti dal compositore. Si prosegue con Elgar e la serenata per archi in Mi minore opera 20, composta nel 1892, in chiusura Dvorak e la serenata per archi in Mi maggiore opera 22. Chiudiamo qui questa edizione del giornale Radio Regionale, che è stato redatto da Francesca Vigori e da Daniele Lettici e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotto in studio. Tommaso Vinoni e Federico Comer hanno garantito la parte tecnica, Valentina Benerusa ha collaborato in redazione. Grazie per essere stati con noi, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.